24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Profondo rosso per le borse europee dopo i dati statunitensi sulla disoccupazione. Crisi Turchia-Israele per l'attacco alla flottiglia, espulso l'ambasciatore. Olimpiadi 2020, tra le candidature ufficiali anche Roma, Madrid e Istanbul. Europei di basket, Italia batte Lettonia e continua a sperare. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Ancora un venerdì nero per le borse europee. In una giornata già difficile è stato sufficiente che i dati sull'occupazione statunitense fossero leggermente peggiori del previsto per far crollare gli stimi del vecchio continente che hanno bruciato oltre 186 miliardi. Parigi ha chiuso a meno 3,59%, Francoforte a meno 3,36%, Londra ha perso il 2,34%. Tra le peggiori, Milano. I dati peggiori delle attese sul mercato del lavoro statunitense e le nuove tensioni sui titoli di Stato italiani sono costati a Piazza Affari un nuovo venerdì nero. La borsa milanese ha perso il 3,67% sul FTSE All Share e il 3,89% sul FTSE MIB, in una seduta caratterizzata da vendite sulle banche e su tutti i titoli ciclici. Tra le blue chip la maglia nera è stata UbiBanca, meno 6,48%, colpita anche dal taglio del rating deciso dall'agenzia Moody's, male Fiat, scivolata del 4,98% all'indomani della pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni italiane di agosto. Nel mese il lingotto ha registrato un calo delle vendite a fronte di un lieve rialzo per l'intero mercato. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Mentre in Italia prosegue il dibattito sulla manovra economica, dopo gli emendamenti presentati dal governo e le polemiche di enti locali, opposizioni all'interno della stessa maggioranza, dall'Unione Europea arrivano dubbi sull'efficienza delle ultime novità introdotte. Siamo preoccupati dal vedere un eccessivo peso alle misure sulla lotta contro l'evasione fiscale, ha affermato Amadeu Altafaji, il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. In particolare, ha continuato, sono le difficoltà e le incertezze legate alla valutazione del gettito che può derivare dall'applicazione delle misure antievasione a preoccupare l'Unione Europea. E il primo ministro portoghese Pedro Passos Coelho si è detto contrario all'introduzione in Europa di titoli di debito comuni, i cosiddetti eurobond, almeno per ora. Prima degli eurobond sarebbe necessaria una serie di profonde riforme in Europa fino ad arrivare a un ministro delle finanze unico, ha detto Coelho in un'intervista pubblicata dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Sarebbe una rivoluzione politica, ha spiegato. Per questo sono dell'opinione che gli eurobond non siano affatto la giusta soluzione ai problemi di fronte ai quali ci troviamo oggi, ha concluso Coelho. Andiamo in Libia adesso. L'ONU definisce critica la situazione umanitaria e impegnata su questo fronte l'Unione Europea. A Radio 24 parla il commissario europeo all'azione umanitaria Kristalina Georgieva, l'ha intervistata Gigi Donelli. Le nazioni europee perseguono individualmente i propri interessi economici e oggi tutti si muovono per assicurarsi una fetta del grande mercato libico del petrolio. In che modo questo condiziona l'azione del commissario per la cooperazione e l'azione umanitaria? We in Europe actually take pride of protecting the neutrality. Noi siamo orgogliosi degli sforzi fatti per mantenere la neutralità dei nostri interventi umanitari che riguardano l'intera popolazione interessata. Di certo, l'aiuto è un contributo alla stabilità e questo ha delle implicazioni politiche, ma il nostro sforzo e il mio personale convincimento è che se tuteliamo la neutralità della nostra azione, riduciamo il rischio di vendette e rappresaglie interne e favoriamo gli interessi di tutti. L'intervento umanitario costa. La crisi economica può mettere in discussione l'iniziativa dell'Europa su questo fronte? Quello che ho imparato in questi anni di lavoro che mi hanno portato attraverso il mondo nei luoghi investiti da calamità naturali o dalla tragedia della guerra è che la solidarietà è forte, convinta e riesce sempre a mobilitare l'opinione pubblica europea in maniera compatta. Ci possono essere dubbi e preoccupazioni sull'azione delle istituzioni europee, ma quando si tratta di interventi umanitari, registriamo allora che il 93% dei cittadini dell'Unione Europea ci chiede di intervenire e di farlo insieme. Quando si tratta di azione umanitaria, l'Europa si muove compatta e credo che in futuro questo sarà per tutti noi un grande vantaggio. In the future that unity will serve our citizens very well. Tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha deciso di espellere l'ambasciatore israeliano dopo che Tel Aviv ha rifiutato di scusarsi per l'attacco alla nave di pacifisti in cui morirono 9 cittadini turchi. Ora un'inchiesta dell'ONU ha accertato la responsabilità dello Stato ebraico, definendo l'azione delle forze navali eccessiva e irragionevole. Ugo Tramballi, inviato Il Sole 24 Ore. Cacciare l'ambasciatore e il suo vice, cancellare un'alleanza e tutti gli accordi militari, minacciare sanzioni economiche totali. Sono cose che accadono fra due nemici prima di una conflagrazione inevitabile. È accaduto, preannunciato da giorni, forse già da mesi, fra Turchia e Israele, due paesi alleati strategici fino a poco tempo fa. L'anno scorso Israele aveva fermato una flottiglia di pacifisti in navigazione verso Gaza. Nello scontro a fuoco morirono 9 turchi. Il governo di Ankara aveva chiesto scuse mai arrivate e venerdì ad Ankara si sono stancati di aspettare e i due paesi hanno smesso di essere vecchi alleati. Le implicazioni in un Medio Oriente in ebollizione sono notevoli, soprattutto per Israele. Già l'Egitto senza Mubarak, l'altro alleato sicuro d'un tempo, aveva preso distanze nuove. Ora la Turchia, che è anche la seconda potenza militare della NATO, va ancora più lontano e Israele è sempre più solo. Grazie a Duco Tramballi. Voltiamo pagina, ora è ufficiale. Sono 6 le città che hanno presentato la candidatura ad ospitare le Olimpiadi del 2020. Lo ha reso noto il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, sul suo sito internet, ufficializzando i nomi delle candidate, che sono Roma, Madrid, Tokyo, Istanbul, Doha e la capitale dell'Azerbaigian, Baku. Le 6 città hanno presentato la lettera di candidatura da parte dei rispettivi comitati olimpici entro il termine stabilito del 1 settembre. La vincitrice verrà scelta il 7 settembre 2013 a Buenos Aires. La cronaca ci porta in Spagna. Ondata di arresti ad Ibiza, l'isola dove d'estate lo spaccio di droga impazza. La polizia, nel corso di 2 diverse retate, ha fermato 73 persone, sequestrando denaro, cocaina e droghe sintetiche. Tra gli arrestati vi sono anche alcuni membri di clan camorristici italiani. Adesso lo sport con il basket e il campionato europeo in Lituania. Ieri per l'Italia la sfida decisiva con la Lettonia per continuare a sperare nella qualificazione alla seconda fase. Sentiamo com'è andata da Dario Ricci. L'Italia del basket rimane aggrappata al suo sogno europeo. Gli azzurri vincono la prima partita degli europei di Lituania 2011 dopo i KO contro Serbia e Germania, battendo la Lettonia per 71-62. Grande protagonista Andrea Bargnani, autore di 36 punti e 7 rimbalzi. Contribuiscono al successo azzurro anche Belinelli con 11 punti, Mancinelli con 8, Gallinari con 7, ma appunto il top scorer è Bargnani, decisivo anche nel parziale che decide appunto l'incontro all'inizio del quarto periodo, quando gli azzurri si portano dal 53-55 fino al 61-53 fino poi al successo finale. Ora giornata di riposo per l'Italia di Pianigiani, poi domenica si torna in campo contro la Francia, lunedì contro Israele. Bisogna vincerle entrambe per continuare a sperare nella qualificazione alla seconda fase. Grazie a Dario Ricci. È iniziata a Bucarest con la Sinfonia numero 1, la 20ª edizione del Festival Internazionale George Enescu, dedicato al musicista, compositore e direttore d'orchestra rumeno morto nel 1955. 25 giorni tra concerti, opere e balletto con importanti personalità della scena rumena e internazionale. Il festival ha assunto un'importanza particolare dal 2007 con l'entrata nell'Unione Europea della Romania. Nonostante la crisi economica, i fondi del Festival Enescu sono rimasti quasi invariati, a dimostrazione dell'importanza di questo evento. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadone in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.